c'è nessuno? Etto, sono qua. Buonasera, signor Gio Maria. Signor Gio Maria. Ma la sto uscendo. No, non è riuscito. Ho intanto l'attaccabo sul microfono. Senti, il segnale, però la voce lì sul luogo. Adesso sta uscendo? Sì, adesso sì. Cosa ci vuoi fare? Purtroppo ogni tanto l'attaccabo a che cosa? Il microfono burro. Ho un'influenza. Ah, deve darsi. No, ma cos'è? Quello del portatile. Ma sono a parte di sala, però sono. Ma a volte arrivi forte, a volte la voce manco si sente. Vediamo un po' adesso. Uscendo sono? Sì, adesso sì. Poco fa no. Cosa vuoi fare? È il microfono questo, È il microfono che fa questi scherzi ogni tanto. O lo abbasso bene il PCT, non lo so. Sì, perché sono piccolini quei microfoni lì. Sono piccolini e viene male a schiacciarli. Bisogna adattarci un microfono buono, capito? Allora va bene, sennò questi microfoni sono... Ma anche troppo quello che fanno, dai. Infatti, è anche troppo quello che fanno. Io lo stavo usando ultimamente, poi già c'è quello diventa la cattura. Quando c'è un re di mano a mantenere tutti voci, se ti goca, devi avere in mano questa cosa, capito? Allora, ecco, viene ad avere il microfonino e... Capito? Anche per quello, capito? Infatti, anche per quello lì è così, Che questi microfoni piccolini sono un giocattolo. Ma, già sta per tempo, si sta tutto. Un po' esce, un po' non esce, e per cui attiriamo avanti. Che te, vuvu. E andiamo dove andiamo. Che te. Ma, cosa ci vuoi fare? Cos'è che ci vuoi fare tu? Non si può fare niente. Finché vanno, lasciamolo andare, quando lo fanno più ce lo buttiamo nel cassoletto. E ho visto come una base, già ce l'ho messo una parte il portatile, e lì ha una parte, quindi sto usando questo. Quale? Quello grande? Quello è un bambotto, quello è un bambon. Infatti, questo li fa tutti i busti. Le vanno bene, se sono trattati bene, quelli durano una vita, dai. E per cui... che troppo, dai. Poi per quello che usiamo noi, qualche volta, così. Mi hanno dato il coso, la conferma d'Alghero, che arriva benissimo, arriva. Vedo un po'. Stamattina c'era tutta la mattina, forse c'era qualche gara ciclistica, c'erano tante persone nelle PD, capito? Tutta la mattina e fino alla una passata. Non sono entrato, ho fatto un paio di chiamate solo a te, ma non mi ha risposto nessuno. Stavo sempre ascoltando, è entrato Giulio verso la una e basta. No, stavo facendo un dolce, stavo facendo stamattina, quindi ero impegnato. Ecco. No, era sempre acceso qua, però ripeto, non sono voluto entrare, magari perché loro, si vede che qualcuno è caduto, anche qualche discesa, si è fatto male, e hanno chiamato l'ambulanza, anzi c'era l'ambulanza presso. E non sono entrato per niente, va. Deve essere che era in qualche posto, la cosa doveva esserci, la gara di ciclistica di coso, però in mountain bike, aspetta, in quale frazione era, ma non me ne ammento. In Pineta però è. È perché con Gomino non arrivavano, Non arrivavano con Gommino, allora ho dovuto mettere quell'antenna esterna, con quello arrivavano. Dovevano essere su in montagna, dovevano essere. Comunque no, vicino erano. Infatti, tutta la mattina c'erano. Anzi, è entrato anche Giulio, e Giulio dice che non l'arrivavo da loro. Evidentemente erano lontano magari, capito? Perché a me pure col gomino non arrivavano. E ho dovuto attaccare quell'antenna serra a vedere un po' se... E con quella arrivavano benissimo. Ma in questa frequenza erano, no? In questa frequenza erano. Si racciappano le cose, così delle poste, i vasi, una beffa le vasini, che non si può fare me questa cosa qua con questa frequenza. Io siamo lui, non lo posso usare loro. No, non si può usare per queste cose qua, per un coso sportivo, devono avere una frequenza tutta loro, che ce l'hanno, tutta una cosa fatta improvvisata. Ci la acciappano, fanno una contravenzione più manneda da tutti quanti, e poi gli sequestrano gli apparati, che non si può fare senza permesso. C'erano 5 o 6 ce n'erano, perché passavano la voce a uno e all'altro, capito? Sì, se si mette ad ascoltare la polizia postale, rivedi, intendere, ricuzzurati. Cosa mi dica? Io penso che non li fa, che come lo usiamo noi posso usare anche loro, io ho pensato a quello, No, per un coso sportivo deve essere una frequenza tutta a parte loro. Non lo so, quando si va a farlo, si va in una frequenza dove non devi disturbare a nessuno, non in questa frequenza qua. Ma a me non mi disturbano, io stavo ascoltando e basta, non è che sono entrato per dire no. Così che io li ho lasciati fare, perché entriamo noi, chiacchieriamo noi ore e ore, e non possono usarli loro, ecco, questo ho pensato io. Ma non è una frequenza che è già occupata, è compreso. Se ne cercavano una libera, se ne cercavano e non li disturba nessuno, non li disturba, solo che se c'è il coso postale, la polizia postale, sono cavoli loro, ecco cosa è che dico io. Di questo non lo so, sinceramente, perché mi sembra strano, che se ne usiamo noi, può darci pure anche loro abbiano, per esempio, possa usarli come lo usiamo noi, ecco. Ma quello ho pensato io. Ma no, facendo il coso sportivo si chiede il permesso, si va e gli danno delle frequenze, gli danno, ecco cosa è, per usarli. Come le usano ad Alghero quando fanno la scala piccala. Cioè, le frequenze loro e non li disturba nessuno. Perché ho visto che anche certe qualche volta capita che sento anche persone che stanno lavorando, elettricisti o quegli ruspisti che parlano qua, ogni tanto li sento anche quelli. Sì, ma tutto abusivo sempre, compreso. Tutto abusivo che si usa. Ecco cosa è. Noi paghiamo la concessione per queste cose qua, ma manco noi la dovremmo usare. Vabbè, intanto nessuno dà cosa di zitto. Meglio che non gli facciano niente anche a loro, questa. Tanto a noi non ce ne fa né caldo né freddo, Tanto io, ripeto, non li ho disturbati, perché ho chiamato solo un paio di volte così, in attesa che non c'era nessuno, parlando, e ho fatto la chiamata a te e a Graziano, e basta. Che a me mi interessava più o meno, capito? Sì, vabbè. Io ero impegnato pasticciando con in pasticceria. Ero venuto un pasticceri su Manzano. Chi esce dato male, tu? Chi casera si esce dato male? O a finire... Ora ho finito a quello che un bocchetto di mangiare. Non ti pare si è pesato male. Infatti. Punto me c'è la badetta adesso e adesso lo dà poi, hai visto? Ah beh, da chi ti ha chiamato, lui, la parava prima di chiamare a metà. Ho fatto la legge di passato, per la me, ottore. E cos'è? Che 30, che badetta è? O che dentro, che contenitore, sì? No, non sanno quello che ti ha portato Gio Maria alla radio, a chi rientra in una badetta. Mi pare 30 una badetta, mi pare, un contenitore, catta, beh, vero Gio Maria? Vabbè, t'ha detto, è ancora trombito, ho fatto ancora la digestione bene, e fa la cacciola ancora, e non può fare da bene. Iuia, avvicinati di più un microfono, grazie. A me da che nuovo, a me che Gio Maria non mi ha dato uno di risoli, chiedo una tante. Ah, con il microfono sì. Ah, io sento bene, secondo la ricezione. A certe ricezioni va bene, a certe ricezioni magari... O se la fai di più cupa, se la fai di più o cracchiante, boh, a me mi arriva bene. No, il segnale è forte, solo che sembra che sia lontano il microfono. Ma se ce l'ho un palmo dalla bocca e mi segni male, boh. No, che ti sento male, no, è come che ce l'hai lontano il microfono, il microfono... Mira, come ti virai lontano se va a vedere da lontano, hai compreso? No, ce l'ho due palmi da distante, là. Avvicinalo di più a vedere. Cazzo di più, avacco quattro dici dalla bocca. Ecco così, quattro dita, e beh, com'è, avanza, è nuovo. Non sto dicendo nulla che non sia nuovo, che non sia, che ce l'avevi troppo lontano, adesso va benissimo come vicino, da quattro dita, hai compreso, va? Ah, questo cambia solo, la batteria è più piccola e l'antenna è più grossa, se no è tutto uguale all'altro. No, non cambia nulla, ecco cos'è, che ce l'avevi troppo lontano e sembrava 30 una badetta. Vabbè, sarà così. Adesso accendo l'altro e vediamo se l'altro è una pentola. Non dico che andava, lascia stare che andava. Allora la cuisco, aspetta, chiudo la TV che mi ha già mai dato un film di alieni. Visto è Gio Maria, visto l'hai, te l'ho già detto io, che non era trombito, ma se la vai dentro un film, Era già bastato che era mangiando ancora, visto un pochino, a chi mangia cose, a piano a piano, più buona la ghida e più a mangiarsi un pochino. Ma fare un pochino allora. Ma è secca, io graziano. Lui a come dimostrerà, per carità, cos'è che hai mangiato oggi? Adesso il buono è tutta questa cosa. Beh, a te non riesci a mangiare tutta questa cosa che mangiai. E poi c'era una giacca separata, va, per prendere questa cosa. Ma stamattina Giulio, ho sentito l'hai. anche per i ciclisti, vedi, c'è la Tico 6 fa pensare in questa frequenza, però ti ha inteso che hai già maggio, e un ottaggio riposo, ma chi fanno sopra modulo a Eddi, capito, a chi per la Eddi, da poi il 3 di giugno dici, e dici a me se non arrivini. Ed io fra me ha detto, ma chi sa Graziano che l'ha già intesa che ha visto? Senti, ma non si può entrare. È una gara di biciclette, di viaggi, di chiudere di treni, di barcotto, di cappello, no, a Giulio non lo sentito però. Allora già ho ragione, infatti, vera che cosa di biciclette, eccetera, A chi uno ha detto che la caggiunti la farata e per l'ambulanza bisogna la caricare l'ambulanza e sarà imbucciato. E ha dovuto mandare a cucente, sono entrato e ballo di più ballo, capito? Da poi c'era un po' di silenzio e ha chiamato Giulio, ora giù riposa Giulio, ha detto giù, così e così, ha detto no, oh, cosa conferma, non ho visto balla queste persone. Allora papà si è sulla 27. Allora non ci sono entrato neanche io a tutto il bar. Mi sembrava che stavano andando per Salvego, con questi bicicletti. E a chi? Se ci vuoi ci arrivare bene, se ci vuoi ci arrivare male, capito? A tratti. Però fino ai due gli arriviare forse questi due. Ma che ci porti gli arriviani noi a portarti, e lì ci vediamo via nella macchina, via via, e erano un bel po' che il bariatrano che era portato, quelli era radio in macchina. Va bene, va bene. Comunque taggi inteso quando hai chiamato, io non taggio il riposo, ma l'ho detto bene. Avanti, signor Tore. Sì, io sono qua, io. E Graziano è che non fa. Che no, che a quella magnetti è forse. No, allora va di tirato un caffè, ma ti bagnato tre biscotti di cui salva. I biscotti. Che si farinosi? Quelli che sono al cioccolato, alla crema, sono rettangolari, lunghi, dei gentili. Riprendi. E stanotte canto di insulina? Ma vale via via, la pigiata di duretto, 130 prima di mangiare la via, 146 e 146. Stanotte mi avvi giù. E quanto sarà? 40,50. Quando è così, quanto ne devi fare di insulina? 8 me ne faccio, 650. Se è giusta è 100, 110, va bene. Quando è così me ne faccio 8, tutti. Quando mi lancio un pH che aumenta. E così, più vedi se più aumenti. No, non lo so io. Per dire, se mi lancio a 190, me ne posso dire. 16. Andà bene. Oh! Via Gianmarì. Cosa la vedi, Graziano? Non ho capito, no, Gianmarì. Ma non sto uscendo. Cosa stavi dicendo adesso? No, perché ho sentito Graziano dicendo cose che non avevo capito bene. No, che gli ho chiesto io, quando c'è la alta, a vedere cosa se ne fa lui. E lui mi ha risposto che se ne fa... di coso, l'insulina se la solleva, quando vede che è troppo alta. Magari se ne fa 10, 12, se ne fa 15, e per lui va bene. Infatti quello stavo chiedendo. Andava bene. Oggi me l'ho misurata io, 157 ce l'avevo. Un beassa, Ma sempre così ce l'ho io, tu, 143, 150, 153, 157, è ballerina la mia, capito? Non è mai precisa, ecco. Per cui è sempre così, ce l'ho io. Stamattina me la sono misurata anch'io e ce l'avevo a 116, ce l'avevo. Ehi, allora, tranquillo, cazzo, sa. Cazzo. No, no, io ce l'ho sempre così, capito? Per cui per un paio d'anni e più l'avevo così, 143, 146, però dopo piano piano andava e aumentava, è così. Adesso questo periodo, tutto quest'anno e prima pure, ce l'ho sempre così, Un po' aumenta, un po' diminuisce, un po' aumenta, un po' diminuisce, capito? Per cui non ho... H176, H178, qualche volta capita, quando ne abuso però, No, io... Adesso, quando ho da fare le cose, le... come si chiama? Le analisi, che c'è anche con le urine adesso, il 7 novembre, no il 7 novembre, prima, la settimana prima che devo fare le analisi, la di prima, la notte magno pollo magno, ero mangiando per la giugliuta. Io sto mangiando tutto, non c'ho cose, io mangio tutto, io sto mangiando tutto. E oggi cosa hai mangiato oggi? Oggi ho mangiato, allora, un piatto di pasta asciutta. Poi cos'altro ho mangiato? Un pezzo di formaggio. Poi cos'altro? Una fetta di melone. Non ho mangiato altro oggi. Però adesso me la misuro domani, no? Perché adesso certe volte so che una settimana non me ne misuro io. Oggi me l'ho misurata e avevo 164, ce l'avevo. Io ce n'ho 7 per ogni mese. In 3 mesi ce ne ho 7, ne ho. Hai capito? Devo farne... quelle 7 me le devo dividere in 3 settimane, me le devo dividere. Ho capito. Perché la diabete non sono tutti uguali, capito? Più o meno chi ha un certo tipo di patologia, c'è quello che ha un altro tipo, eccetera, eccetera. Ce ne sono tanti tipi di diabete, di roba diabetica, capito? E per cui la mia ballerina è... la mia ballerina, per cui se è troppo bassa si mi nota molto, capito? La noto molto, magari se è più alta la noto di meno. Anch'io fa a me così fa. Grazie, così è. Io sto mangiando tutto, ripeto, no, sto mangiando tutto, ecco. Non guarda niente, tanto visto che prima stavo a una certa dieta e mi sentivo sempre male, cazzo. Beh, allora faccio così, eventualmente quando esagero magari oppure qualche cosa in più me la faccio, capito? Però io più di 16 non le faccio la notte. Vai, grazie, vai. Però muoviti, Se no si fredda la pasta asciutta. Che andiamo, via, andiamo. Allora. Ma chi c'è ieri? C'è che era capogiri, Oggi no, non lo so mica, che forse sarà salito da campagna adesso. Sarà corrigendo. Ma io penso di sì. C'è il sole ancora, E sono quasi subito le 6:30. Le giornate sono più grandi adesso, Adesso alla prossima domenica, non questa, l'altra, l'ultima domenica cambia l'orario. Dormiamo un'ora in meno, così è. Dormiamo un'ora in meno, io tanto mi posso convenire a te, sì, me ne bisogna di 6:30, romanzano. Alle 6:30 ti rialzi? Sempre, io sono ormai abituato così e me ne alzo sempre alle 6:30. No, magari io, magari se è mezzo, sono sveglio sì, però, e cosa fosse in terra? Non faccio niente in terra. Verso le otto meno, sono sveglio però, non dormo, sono gira gira ma non dormo, però rimango a letto. Verso le 8 meno 20, meno un quarto, me ne alzo. Faccio colazione, piglio la pastiglia. Così che dopo mi torno a coricare. Mi bevo un bicchiere di latte con una fetta di biscottate e to. Per prendermi la pastiglia faccio così. Mi scaldo un bicchiere di latte, quello in plastica e me lo mangio con una fetta di biscottate. E mi si sono raccoccato. Certe volte mi vedo a dormire, certe volte gira gira chiacchierando così, fino alle 9, le 9 e mezzo. Se non devo andare a accompagnare mia figlia, alle 9 sono già in terra, capito? Di nuovo. Mi preparo, dici, me lo metti, esco. No, io perché mi devo preparare tutto, poi alle 8 sono da mia figlia per accompagnare mio nipote a scuola. E domani ne aggiù lui, e molla uno e poi è già regolato all'asilo. Perché mio figlio aveva la macchina guasta, quindi tocca a tutti e due a me domani a mangiare. Anche quello bisogna fare. E io non so accompagnare mia figlia tutti i giorni, tranne che sabato e la domenica. Per cui devo andare, capito? Ma devo accompagnare. Poi a mezzogiorno devo andare a prendere, la porto alla casa e me ne vengo qua, capito? Tutti i giorni. Io sono lo stesso così. Poi all'una e 25 devo ritirare a mia nipote. E poi alle 4 passo a pigliare l'altra dall'asilo. Hai compreso? E tu a che devi prendere, grazie a? Non prenda nessuno, e nessuno vedi mangiare e basta. Infatti è così. Lui ha fatto il dissa in casa. Anzi prima fa il pranzo. Prepara tutto. Mangiano. Rifà i piatti, fa pulizia e così via. Così è grazia. Rete la roba e to. Infatti, nei capelli la roba, nei capelli. Meglio così. Ah, manco rimane un po' in movimento, rimane. Penso che non le macchine, mo. Quello da fare, no. Stamattina ho fatto quarto d'ora di pedana. A che andiamo un po' con l'acchi riati, ma tutti i giorni, la mattina, un quarto d'ora, 20 minuti li faccio, almeno mi sgranchisco bene le gambe e to. Io mi pongo a pedalare, non che faccio un gozo, ma a pedalare, me ne faccio un'ora, due ore, un po' di voci, sennò che non mi tracco, sento che pedalare nel movimento dei bracci, quando ti fa muovere tutto il corpo ti fa muovere. Quindi ogni anno occupiamo un'ora, due ore, andando una giugana. Tu c'hai la bicicletta, io c'ho la pedana. Poi da parecchio non la usavo, Cazzo, infatti lo volevo abbassare, è più strano che non parte, boh. Invece bisogna farla caricare quando sa molto, molto tempo. È già quasi 6 o 7 mesi ferma. Si vede che finché non sono scaricati i condensatori non è partita, Infatti, no, qua ce l'ho io, ce l'ho a coso, ti metti dritto e pedali e muovi le braccia, muovi. Se non muovi le braccia no, non ci riesci a pedalare. Ah no, come mai? Ma il cavalletto c'hai? No, tu devi mettere dritto sui due pedali e devi muovere le stecche, devi muovere per pedalare. No, io ho la pedala e cammino così. Un po' mi attacco, con tutte le braccia, un po' l'attacco a uno e l'altro lo muovo, momento, in certi momenti le tocco tutte e due e cammino così come stia camminando a piedi, capito? Infatti, vogliono così, vogliono, per poter fare un po' di movimento, ma a piano, domani come ti mollaghi, sì, mi pongo a camminare, a salire su al centro. 3 chilometri già li ho fatti stamattina, vai. Adesso altri 3 ne farò, 3 o 4 ne farò domani e così via, andiamo aumentando, capito? Io domani mattina mi prendo il metro, se non offendeva, cioè mi tocca stare con una macchina e salire su in via Roma a Cattasto e prendere le cose di quel terreno lì. Devo prendere, a proposito, devo telefonare a quello, devo telefonare, fammi dare il numero. Ah, prendi il trenino e poi prendi qua il tra, così la 24 o 25. No, mi prendo solo il metro e me ne scendo alle mie ciclo e poi salgo lì a piedi, salgo e già mi viene vicino, o se no mi prendo il tra e me ne scende vicino, me ne scende lo stesso. Che già va bene, beh, infatti conviene salire in tra, chi con la macchina non trovi il parcheggio, per cui è un macello. Infatti, o fare così devo fare, che sennò se sta piovendo, ma non ne ha messo acqua per domani, quindi dovrebbe essere buono. O mi biglierò il treno, il metro, o mi biglierò lo dra. Lo dra me ne farà via le Dante. Ero lo coso, me ne scendo all'emiciclo. Te ne scende lì vicino all'ospedale vecchio, in Viale Dante, da. Prima me ne scende. Me ne scende prima la fermata, come fa il giro da Via Turati, me ne scende in Viale Dante, all'inizio di Viale Dante. Non lo so. Ho capito, sì, ho capito. Da lì salgo in viaggio già a Sfroni, adesso che arrivo, ho 10 minuti di camminata, e sono arrivato lì. Da museo sotto o più su del museo, devi andare. No, è di fronte al museo, aspetta che c'è Bacchisio. Signor Bacchisio. Vado domani mattina che sono più libero, come mollo i miei nipoti, salgo direttamente lì e mollo la macchina, la fermata del metro e salgo direttamente. Adesso devo telefonare a quello lì, devo telefonare. Piandanna, no, che è sempre lì il catasto. No, non l'hanno impostato il gattato, no. A Piandanna per Ugoso, l'ufficio entrate. Il gattato è qui a Roma, allora. Io sono andato anche l'anno scorso, ci sono andato lì. Sono andato l'anno scorso, è sempre lì il catasto. Confermo tu, è lì sempre. Graziano non c'è, deve essere ancora togliendo la roba stesa. Ma come mai sei così basso? Basso solo. Ma vanno, Mazzola, Barighi, lontano. Da Gian Maria, a te, Gian Maria mi ducava a Bascià, e a te mi ducava a Zà. A piedi, devo vedere da lontano. Stavo parlando da lontano. Ah, ecco, bagosa. Catta, non lo so io, bobo. Mi vedi abbassare e alzare il suo volume, io. Poi complimento, non è poi altro, Gigio, buonasera. Ho dovuto mettere l'antenna che sennò non ti sentivo, Bacchi. Comunque il catasto è sempre via Roma, Bacchi. È sempre via Roma quello lì. Allora mi sto confondendo con qualche altro ufficio io, non so se era il secondo lì. Allora, mi sembrava che era lì. Io non voglio insistere. Non voglio insistere, ma non lo faccio. Chiedo mia sorella a vedere un po' quando viene. No, no, è sempre lì perché l'ho fatto l'anno scorso, ho fatto un foglio lì di misura. Ed è sempre lì, da chi? Non si sono spostati per niente. Là in Pian d'Anna c'è l'ufficio entrate, c'è, che lì. Lì è sempre come entri a destra o come entri a sinistra, è lo stesso. L'anno scorso sono andato a fare che cosa, sto pensando che cosa. Un po' del catasto ho fatto, un mappale mi sembra che ho fatto. Ho richiesto un mappale, adesso non mi ricordo come era la questione. Quando mia sorella ci siamo insieme, che era lì, che lì un'aria più fresca. Ma il coso mappale io, il coso a visura mappale io l'ho fatta al catasto, l'ho tolto a furia io, della casa. A chi me l'avevano richiesto e l'ho tolto fuori da lì e ho pagato 18,20 euro. Gommino, sempre che è lo stesso coso, Bacchi. E con Gommino non ti sento io, magari tu senti un po' bene, un po' male a me, però io non ti sento per nulla. Adesso ho dovuto attaccare l'antennino e già ti sento qua, va. E così è, Bacchi. Oggi sceso sei campagna, sì? Chiaro, lo sento poco fa, 10 minuti fa in campagna. Poi mi sono fermo salendo con l'antolino, fare quando chiacchiere con l'antolino e adesso fate le 6. Beh, guarda, si trova qualche persona amica, è chiaro così, chiacchierando, passa l'ora nemmeno se ne accorge. Ed è così, va bene così, Bacchi, almeno ammazziamo il tempo, e purtroppo è così. Vai tu, chiama a Graziano se ha ritirata la roba. Graziano, ci sei o non ci sei? Se ci sei dai un colpo. Sì, non ha più stata la pioggia che è passata tutto qua, un volone sulla Montemuti. In campagna si è fatto quattro voci, la Montemuti è alla stessa delle fornitore che scende Valaria. Vuol dire che te la bicicletta, Bacchi? La macchina lui era là. Dice, ti davo la macchina gratis. Se non arriva tanto veloce, sto asciutto. C'è ora anche su Bezzo. Vuol dire che vogliamo infondire un rifornitore, vogliamo infondire. Per la male macchina, basta di non che era. Fatto lui si è in 3 minuti, ma a 4 mani. Un volone scaricato e basta. Era di passaggio anche su Bezzo allora. E ne si è acciappato, ha caricato. La nuvola di Pantuzzi, c'è un barriera. Ma era una nuvola passeggera, eh. Un depassato è caricato, Bacchi. Gatto. Poi caricare un po' questo dialogo, gatto, perché no. Caricate di un luogo e basta, boh. Vabbè. Grazie comandante Salvatore, ma ad esempio al contrario di chi ci vogliamo noi, a chi noi siamo troppo male a dito, per cui fate chi ci vuole, o dei piatti fate caricare. Quando è cracco qui da carichetto, non fai da noi che faccio. Ma Salvatore siamo dei mali, allora bisogna fare il contratto nuovo, a chi il contratto vecchio non vale più, facciamo contratto nuovo, rimediamo le cose. Bisogna stampare la cassa bollata. E poi qua la benda buona per scrivere e dopo a firmare. E ok, oia. Allora Tito. Perché bisogna dirglielo, vai e farà acqua lì. E boh, devi, da, devi andare direttamente dove c'è, come ti dici, le cose di Abanoa, i... l'Urago, a caricare in Chivi. Non è che devi caricare un luogo, non ti fai la diga solo, no. Devi caricare ogni luogo a chi, la terra necessita di leva, se no non anda nulla, non cresce nulla, e da poi siamo mari noi, non abbiamo niente. È quello che sto dicendo io. A caricare nel viso dove non ci serve l'acqua, deve andare a scaricare dove ci serve. Ah, oggi abbiamo di forza a Visavalore. E vai, io fammi tanto, ma dici che siamo troppo male noi, così che siamo diventati troppo giriati, vorremmo qui, siamo un d'astro e non è morretta, capito? A chi devo fare? Che noi dobbiamo essere sempre bravi a andare a ad ogni avviso, se possibile. Se lo metti, lo facciamo, non li fermo, ci disiedo, allora fate a piacere su, io va. Andavi. Vabbè, fermo così, fermo. Cosa vuoi che ti dica? Beh, ma chi? Non c'è più gente brava, tutti... Tutti i malati di campo insieme, papà! Allora, primo Rosone, Don Marino, ci vuole 15 giorni di sole, bisogna fare la domanda, invece te la concedi. Ehi, infatti, insomma, stava a capo di Rosone. Ehi, ma primo, che la non ne fa di più, ma chi? Non si può fare nulla, è bagnata, la terra è bagnata, non ne può più la terra, va. Rimane a Galleggiani, se non andare in soffi, non affida più. E cracca, ma senti un poco di sole. E fa delusore. Da poi mi fatti l'impianto da un vaccino a innaffiare, se non faceva. Così che come ti fate gli agricoltori. Sono solamente di non fare per forza se che di vaccini, vedi. Cazzo, la nurra, tutta la riga, tutta la piscitacchia, a rubinetta, a pompazzesi, cazzo, per forza, se ci arriveva che non venne più il rubacino, ma chi su è? Prima non si sia ricampava i rubattesi. E tu andi a cosa, a un lago di Perugia, vedi che molto poco mi sarei una ventina in fila, ma tu mi la 25, tutti grossi. Povero non fare sia al chiuso, se una di gentile per il mondo, più povero non ci sia, se no sono tubi enormi. Ma se sta da cuga, ma che tu fai e lasciare la lira e tu li vedi gli agganci dell'innaffiatura. Aspetta, ogni male 30 metri, 21. Da che attacca gli si bompi e gli si innaffiatori manni che altri vi bari so 100 metri laghi. Ma non sa quante valenea mi cava da lo vaccino, la idea. E da uno solo. Conta tutta la lurra che anteva di voi. Avanti, ti lo so. E cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è così e bisogna fare così, bisogna fare. Però se tu ti svegliare, tu un padrone ti svegliare. Andiamo, andiamo. Che andiamo, andiamo. E vabbè, facciamo così. E così siamo lì. Cos'è, ma che mi ero distratto un pochettino? E ho detto che bisogna legare l'asino dove dice il padrone. Oppure legare il padrone dove dice l'asino. Bisogna allargare la fascista come ti aveva detto prima. Forse lo vedi. Ma se la lascia un po' affamato, no? Non so bene più. Graziano. Graziano, non avete la tua roba, vai a prancendere. Vai a bracciare, pigiarla e poi ci ha detto un coso, questa roba, come cavolo si chiama. Ah, ecco, ma pure a braccia, ringraziamo da questi vecchi, Francia. Figlia la padella delle vacanza e Francia con la padella delle vacanza. Ehi, come te chi su, ha ridotti in televisione. Ma a faccia la cravatta o la camicia che la braccetti, ma che la braccetta, così è bacchì. Ehi, questo mi prende chi si io, ti grazie pure se mi sono trovato. No, ma così va corrente. Questo è per la tira un risparmio. Avanti tu. Purtroppo è così e bisogna fare così, bisogna fare. Stamattina stavo facendo il pasticcere, lo dovevo fare, se no da voi non vi riuscivo più, e toccava l'ampazzo in tutto. Il pasticcione stavi facendo? Il pasticcere stavo facendo. Se no per domani, che è la festa del papà, cosa dovevo fare? Ah, ecco, per la festa del papà non mi farei. Dopo... Andate bene, ragazzi, festa del papà. Ringraziando, allora, che io dovevo avere un vagine. Io invece gioco a ragione, mi tocca a farmi ruio. Male. Ringraziamo. Sì. Chi su entra in bagno e te la fai subito. Oh, Gian Marino, no, non è più religione con Torino. Torre mi pare se ti senti male, Torre se. Troppo vicino a Graziano, e tu che ne accontenti. A me mi pare che si sono fatti un Graziano e se pigliati come... La cosa come te Graziano, capi, se pigliati un bisio. Sì, quindi di piega mara, no, come te Graziano, non è proprio... Se ci se ne ha condito, e più anda e peggio diventa. Bisogna addressarli, se no la chitarra c'è, se l'attore si confonde in tutto, da voi non siamo manco fabbricato. E ancora in nuda, e senta da che in campagna, non ti faccio manco passare il turino. Se da voi, mi pare che, penso che chi lo trascura un po' è la Gigio. Ma è capitato così, forza maggiore così, però ogni tanto già si fa intendere, venuto. No, io faccio quello che c'è, poi noto che andare a sé comincio a riposarmi piano piano, e bisogna fare tutta una cosa piano piano. Ma stai andando a bel punto già o no? No, ancora non faccio nulla. Dipende tutto dalla banca, dipende se me la provano o no. Ehi, vabbè, piano piano. Piano piano, ogni cosa ci vuole il suo tempo, per cui tutto si deve fare piano piano, che si fa bene le cose. A me dopo c'hai... Non ti distraeva niente, gatta. A voi capita, per cui poi attacca l'antenna Ivi e cambia il tempo, magari se ne sarà poco, qualche volta non ma così 5 minuti e ti fa intendere. E non solo 5 minuti, qualche cosa in più già mi vuoi sentire. Perché già ti sta attaccando a sempre a Rodarreno, no? Prima me lo pulisco e poi piano piano qualche cosa faccio da va. Già, anda. Non so come dici che... Tu manco attaccato sempre a un terreno, no? Però, prima di tutto, non sai come mi fa, gli amici, Graziano, voi ci andiamo a fare un cuoco, da poi a fino a noi a mangiare. così mi si mangia burro la campagna, mi si mangia. Sì, io la mastica già vicino alla campagna. Vero bacchino, io mi sono tre anni di anda, Gian Maria, enorme, ma dico sono uno spettacolo, io sì, ho un bucio sotto, è un prezzo che ci può mangiare qui tranquillamente. Posso immaginare, posso immaginare. Ma auguriamocelo, cosa puoi fare? Ah, Marco, a pure, datti là lo svago, da voi pedaleggi diversamente tu, vedrai. E ti sempre più bene, ti senti sempre più bene. Perché quando mi senti sempre bene, ah, ma che non mi sono cadenti, mi senti sempre male. Sì, vabbè, la famiglia che da mani da noi. Ah, Bacchi, ah, sai che c'è una persona che vuole le ghiande, quindi pensa un poco, lega qualche cosa pure da in chivi. Cosa vuole? Le ghiande per i maiali. Sono tre abito vicino all'altra e poi c'è l'altra dietro pericolata e c'ho quattro. E chi mi vedeva la ghianda, vedeva? Ma che finta rete la fai? Sì, gli metto qualche rete sotto. Vedi che hanno gaggio nei tivi. Poi si è preso diventare la busta ogni di. E a voi, a che hanno un bel bussone. Mettono bussi. E di te e me. mi dati che su bocca non mi dico. È chiaro, se dai la ghianda mi dai la ghianda, sì. Se no mi dai tutti i porcellini. Infatti, mi ha detto tu arregami che un paio di porcellini avvicini. Se ha detto io. Ma mi vedete con cui si va? Insomma, già l'acquirente ha avuto me. Dunque sono andato bene. Da parecchio che me l'aveva chiesto se gli trovavo delle ghiande. Ah, tu mi vieni, vicino a io, gente so io e ti rivai. E io pure a me, infatti un pastore ogni manzano a fondarmi. Sì, c'è uno che se li fa, viene. Molte viene il sabato, molte viene la domenica mattina e se le fa. Infatti, la mucca, con la paletta mi accusi. E anda bene, tanto sono buttate, gli animali se ne mangiano. E al maiale già mi piace perché sono dolci. Infatti, dici che venisia è roba sana, buru. Catta, quando gli dai quella roba lì, cresci, buru. E si ingrassa, beh. È chiaro. Chiaro, i porcellini. Siamo lì, avanti. E un attimo, va che ripeti, allora rientro su. Ok, benissimo, siamo lì. Vai pure. E così. E così la pensione, so. E ti ho detto, guarda quello che c'è in corso. In televisione, vedo un po'. Ma telefonando non si conta niente. E qual è quello che c'è in televisione? Quello se sei pensionato, ti danno 75.000 euro. Ho pensionato un lavoratore. Ah, l'Inps. Non so come si... No, Presto Felice. Presto Felice? Ah, è sempre in banca, Bacchi. Sempre in banca, devi avere sempre uno che ti affianchi. Ho già chiesto per queste cose qua. C'è anche la Compass, però la Compass mi ha detto più di 30.000 euro non li possiamo dare. L'ha già telefonato alla Findomestiche, anche loro 30.000 euro, non di più. Findomestiche non anche dalla mala, perché non... quando ho preso la macchina ho chiesto i soldi della macchina, 10.000 euro. Naito dice non vuole poterlo lavare, perché lei mi ha detto sulla Findomestiche, se devi paga la quota che deve pagare qua, non mangia. Se mangia non paga la quota. Ha detto, ascolti dottore, a lei non ne frega niente. Se io mangio, non bevo. A lei cosa le devo dare? 100 euro. 100 euro di do. No, non possiamo accettare. E non ho accettato. E invece poi ho scoperto, non era il coso, perché era il coso pilotato da Autolino, perché Autolino va pure. E si via di Nau, non parlate di questo video. Mi ha contato, senza risultare da nessuna parte. No, io ho chiamato, siccome sono cliente, io lì. Ho chiamato, ma hanno detto, dice, più di 30.000 euro no, non diamo noi. Le cifre grosse non ne diamo. Più di 30, non fa manco la Compass, che sono diventato cliente a Vamme. e mi hanno detto che più di 30 non danno loro. E la banca mi ha chiesto che ci vuole un'altra persona, infatti devo andare come figliola, devo andare e vedere cosa mi dicono. Che parla, dice 75.000 euro senza me, se fa senza il discorso della pensione o un lavoratore dipendente. Però là, senza nulla, hai una 75.000 euro per fare il motivo della punta. Fai domanda tu, lo sai? Boh, a me mi pare che sia tutta una truffa questa cosa, perché a me la banca mi ha detto, dice, noi possiamo finanziare sino a, da adesso per 9 anni sino a 76 anni. Boh, 9 anni mi hanno finanziato quel prestito lì, hai capito? E invece quella televisione parla fino a 85 anni. Dice che quella c'è da 75 anni e gli hanno dato 75.000 euro. Ma non lo so, Cubacchi, le cose hanno fatto, adesso per 75.000 euro hanno fatto 1.500 euro a un mese, hanno fatto del coso, ma scendi prima, fino a 85 sono 75 sono 10 anni, sono 1.500 euro hanno fatto adesso. La curiosità mi voglio togliere di chiamarti, guarda. Voglio proprio così, per tutto, voglio sentire cosa mi dicono. E dove rimane questo il coso, il numero? Oh, quelli che escono nel coso, com'è? Prestito felice. Sì, ma ce n'è una sacca, un nuovo sacco, di questo che viene da poco. In via Le Lande. Però non mi ricordo il numero che sia. Intanto ci devo salire domani mattina da quelle parti. Se guardo a vedere e prendo il numero, o se no chiedo a loro direttamente. Entro e chiedo. A vedere, se no verete su una banca, verete su con chi si. Ma è chiaro. Tanto non posso tirare i soldi, questo è quello che scrive, 100 euro. 100 euro mi dai. Sia la banca, sia chi si, guarda che si sono via che io ti infatti. Ma questa che virai, so che devo essere sicuro con chi so, che andrà finito, perché non posso tenerli più di tanto io. E lo faccio farli, prendo i telefoni e ci farli. Magari poi, se mi prendo la cosa per raggiungere o... Domani mattina lo chiamo per farmi dare il coso del catasto, me lo devo far dare. E se c'ha il numero oppure con il cognome e la via metto a voglia se ne rugavano Mattesi era per i fuori basta avere il cognome nome e cognome la per i fuori e infatti detto, poi già c'è un amico lì che geometra la c'ha pure sempre ogni volta che hanno la c'ha pure sempre in chivi è quello che esce quello, quando facciamo la processione al latte dolce esce con la croce sempre esce. Il giovane è quello mio. Sì, non è giovane giovane. Ci avrà un 50-52 anni ci avrà. Non dimostra, perché 52 anni non lo dimostra fatto. Sì, poi te lo faccio vedere chi è. Lo trovo sempre al catasto un sacco di volte. L'altra volta mi aveva aiutato lui direttamente e mi ha tolto lui. Con il foglio dice aspetta non andare lì aspetta che te lo tolgo io il foglio e mi ha fatto risparmiare 18 euro e qualcosa mi ha fatto risparmiare è chiaro sono lì loro hanno le mani nella pasta vai tu sì, come un vermi in mezzo all'acqua e fai da come farti andare. No, se lo facevo all'ufficio pagavo 18 euro e 60 mi pare. Invece me l'ha fatto lui tramite il computer che c'è lì, te lo fai tu e non ti chiedono soldi loro. A loro non chiedono soldi. Me l'ha fatto lui e non ha già pagato nulla. Hai compreso? una cosa che non fanno pressione, che tu vuoi non fare. Infatti, ed è così. Ah, domani si racciappo, me lo posso fare da Edo, direttamente. Sappiamo. Sì, a signor Graziano, pure a signor Graziano, dummelo me. Ciao, Bacchi, ben sentito. Torre a Lago, San Pietro. Ehi, più di 30.000 non ti danno. E metti mai a me, mi mandare lì, un lascetto gli antichati, faccio il telefono di tutti. Di 20, di 30, di 50, di 60, mi mandano la segna a me a casa. A telefona e fatemi tutto. Grazie, io ho già chiesto, ho già fatto tutto. Mi hanno detto, guarda, se ne sono andato in tre finanziarie, vedi che su tanto non ti dargine. Forse perché c'ho l'età troppo alta e più di quel tanto non ti danno. Ho preso. E allora prova quella che ti ha detto, Battista, se le dice che ti dà pure un altro animale. Fino a 85 anni, prestito per si chiama lui. E domani ci provo a vedere cosa mi dicono. Ah, se non me lo dà, tira la banca, provo in chibi. Mi vengo già pronto con Kiss. Se no prova con la ingredante, Ago, l'ingredante, all'angolo di via Tempio. Nulla da fare, quelli non me ne danno. Nulla da fare con quelli. Con quelli avevo già bisticciato io e non me ne danno. Ti mandano i volantini fino a 80.000 euro. Fatto da 10 fino a 80. Avevo bisticciato una volta a Bacchi, perché avevo chiesto le cose e loro mi hanno chiesto di se c'avevo o altri prestiti, ha detto, e lei cosa gliene frega se ho altri prestiti? Ma sa com'è, no, non sa nulla lei di me, ha detto, provi a guardare nel computer e lo sa subito, se ho prestiti o no, dopo visualizzarlo, no? Ma sa, così facciamo più in fretta. Allora, Giubilea ha detto, faccia una cosa, se li tenga, arrivederci. Sono strano, insomma. Sono strano, perché ti mandano i biglietti e poi non si può dire nulla. Sono strano, veramente. Non penso invece in televisione, da 1.000 euro fino a 500.000 euro. E se così domani mangiamo, vi basso e domanda, vedi. Se quello che sono, quello in Viale Dante, forse quello che è di Viale Dante, allora l'avevo già visto io lì. Rimane all'angolo, rimane. Già è quello lì. Ci passo e glielo chiedo a vedere. A vedere cosa mi dici. Non chiedere che non si paga, eh. Non si paga. Non si può chiedere tutto quello che vuole. Avanti, signor Grazia. Ah, ma che lo chiami non ti rispondi. Che banca c'è andata? Al banco no, alla banca che c'ho io, a San Paolo. Intesa San Paolo. C'ho il conto lì io e quindi ho chiesto lì e mi hanno detto di provare con mia figlia. Tutte e due assieme sono due redditi, anche se lì vive a Londra, sono due redditi che fanno loro. E tu prova a vedere al Banco di Sardegna. Ah, che li dovrebbero dare? Sono mai redditi. Tu finirà, che il Banco di Sardegna non è come la San Paolo, che si buoni troppi garanzie buoni. Ho già chiesto una volta e volevano un sacco di garanzie. Allora avevo un attimo in Tanzania. Io avevo preso una volta 70.000 euro, no 70 milioni per comprare un bagno, un 40. E me la viene dato. Due volte, non la vita, due volte me la vita. Sono proprio pensato. Al Banco di Sardegna. Non mi hanno mandato. Sì, loro mi hanno detto di portare su due buste paghe di mia figlia insieme a mia figlia e guardavano il reddito, guardavano. E da qualcosa lì mi ha detto che avviavano le pratiche, poi. Prova a dire prima va bene, non era tutto facile, se adesso avà, mi rimanda un sacco di giorni. Vabbè. Insieme a questo prestito qua c'è anche l'assicurazione. Se vedo che nel primo, il secondo e il terzo pagamento non lo paghi, subentra l'assicurazione. È compreso? Non lo so già che c'è l'assicurazione, per lui. Io anche nei prestiti della Coppa, Gaviago, che ho preso, sempre l'assicurazione te la mettono in mezzo. A chi ci non paghi, paga l'assicurazione, a te ti si potevi dare la se no ne ha il fatto è che non si occupa che ne la ratta io ci sono i soldi in mezzo dell'assicurazione anche ogni mese è logico già c'è specificato poi nella fattura che ti arriva già c'è tutto specificato e poi ogni 18 mesi ti mandano il resoconto e ti mettono anche includono anche quella spesa dell'invio documenti però soggia e quelli sono 50 euro in più il primo mese poi tutto il prossimo mese va tutto normale va è compreso non lo so come cioè 50 euro in più il primo mese che serve anche per tutti i documenti però per il primo mese, poi dal prossimo mese gli ho detto la cartacea non me la manda tramite email tutto quanto per non pagare tutto quanto ogni mese le cartacee e cioè te le togli tu dal computer te le togli, dalle email no vabbè, si giambati, noi come si danno la mia figlia e sempre un caso e poi dipende anche dall'imbecille che trovi a chi un po' di voce si conduca imbecille lei a trapatia poco tragica dipende anche dal funzionario che incontri e qua sono messo di testa a pezzo quello dove sono andato io abbastanza c'ho il biglietto anche è abbastanza negoso anzi mi ha aiutato un bel lui mi ha chiesto anche che potevamo fare un mutuo ha detto no lasciamo perdere il mutuo. Con il mutuo ti danno il 70% e arrivi alla cifra che non è giusta per me. Ha detto no, preferisco uscirmene prima con i 9 anni me ne esco. Hai compreso? Te lo fanno per 9 anni, paghi quel tanto e sei a posto. E in 9 anni la cosa è tua poi. Hai compreso? Fare a tasso fisso in 9 anni con la quota messa in mezzo. A che ci noti imbrugliani, poco giorno. Sì, ne so che ci doveva a gennaio, l'avevo fatto io con 31.000 euro. L'ho fatto a tasso agevolato, l'ho fatto. Ha cominciato, il primo mese mi si è alzato, il primo e il secondo mese mi si sono alzati. Poi dal terzo mese ha cominciato a basciare e si è arrivato a rimanere al tasso a 209 euro ogni mese, sicuro rimando, fino a fine lo di bagallo. Ecco preso, con il tasso variabile. Non so. Ah, sì. già sta aiutando, sì. Quando si tratta di nappa, già sta aiutando, non ti preoccupare. Fatene tutto per dattiri. A voi sarà pagallo, eh. Già posso che da stamanina io. Anche questo con la prego, questo con il contratto agevolato. E a me il 5, mi ha fatto il 5,40% di tasso. E di quanta quantità di abusi in 9 anni, semplicemente? Non devo tenere abusi. A marito deve chiedere che deve entrare all'attacco. Ore! Eh? 9 anni la razza, mensilmente quanto di cui paga? 826 al mese, pensa un po'. Ma su me, tu? No, uscì, tu non ti cazzo già, no, ma ne manco, ma è vero. E quanto ti hai domandato? 70. 60.000 euro, però no, come prezzo è giusto, come cosa è giusto, però no, e a pagarlo già avrà voto io. E bongo due dei cicatturetti vola la notte. Vero Bacchi? Ma non è quello, che dato di altro. Mi sembra troppo al mese quella quota lì da pagare. E infatti nei 15 anni così pare più poco, che grazie, non te lo danno, sino a 76 anni te lo danno. Di più anni no, non si può, perché ho già l'età alta, hai capito? Te l'ho fatta, me l'hanno fatto per 9 anni. Ah, manda a Vero Mattesi, quindi, a Vuglia. Però signor Bacchi. Vabbè, metto due di quelle signore a chiedere ogni giorno. Posso ridere così, tanto, non andare. Benissimo, risparmi anche, fine marino, come si può fare, vedi, lo sa. Quindi ci ha avuto, invece è stato da un credito a prezzo. Chissà come comportarsi. No, già lo so anch'io, perché sono andato con questa persona, ha portato lui e cosa, ma poi c'ho un conoscente in banca che mi ha indirizzato lui da quest'altra persona, a Vuglia, mi hanno consigliato così di portare a mia figlia e fare le cose con mia figlia, ecco preso. A banca a banca cambiano, anche a me avevo chiesto io un prestito tanti anni fa al Banco di Sardegna, il Banco di Sardegna mi ha detto di no. Sono salito al Banco di Intesa San Paolo, avevo partito subito la procedura, via. La signora mi ha fatto, dice, mi a tempo di un paio di settimane, quasi alla fine della seconda settimana, ho ricevuto la risposta, signor Pinna, tutto a posto. Ho chiamato il notaio, ho portato il notaio su in banca, mi ha fatto tutto gatto, beh, fatto tutto. Poi due anni fa avevo chiesto il prestito per farlo per mia figlia e me l'hanno dato, in due giorni me l'hanno dato. Grazie. Ehi, qui a tirarsi in fretta. A me mi mandano i pugni, quindi basta solo se c'è l'esco e basta di tutto questo, ma tu vanno. Purtroppo ho già tanti danni su questi corsi così, però ci fai un capo di tutti i milagri agitati in più, ma tu ci si vita di tanto, a su che chi si, ma di tanto, oh yeah, troppi interessi, con i magnari certi gaffani. Interessi non ci sono altri, e ma... E c'è una cosa buona che mi dà, se mi aiutano a vivere. Quello sì, vabbè, se c'è il posto di lavoro che sei tranquillo, ti sei sviluppato, ti arrischi, io mi sono sempre arrischiato, e bene e male anche sempre pagato. Come sempre in regola, sempre pagato, anche un bel gusto. Quando non aveva i bollettini in casa, le crocchette, allora ti mandava. Ti pagava un pugno, ti metteva a mezz'ora, due, tre, passavi prima. Vedi, e lì si non recalavano gli interessi. A tirato finire, a tagliare gli astuti, ma in quei tre mesi che gli ho fatti, c'è interessi, da lì non me li scalava. E così, non va bene. Lei le ha pagate per come lo suo, per finire prima, e vabbè, ma l'interesse è che mi ha aiutato, anticipati. Sì, ma io ti interessa per il caro, perché tu ne paghi due, per il fatto, fini prima. Tu che dovrai andare in interesse, hai risparmiato, non so, perché in Francia, 60 euro, ho tirato, vedi i mesi. Infatti, per quello che sta dicendo, ho pagato due o tre ratti in un pari, invece ne paghi una alla volta, quando vini, vini. Quando deve finire quel giorno lì, e quel giorno lì finisce, come ho fatto io. Vira via 15 anni che tu gozo, questo mutuo, l'ha già finito a gennaio, l'ha già finito, di quest'anno. Quindi, come vedi, è stato pagato. Hai 15 anni invece. Tu sei partito una cifra enorme. In 15 anni l'ho messo, stai pagando una fesseria perché non valuta dai soldi, in pratica stavo pagando una fesseria. Stavo pagando una fesseria, stavo pagando, ma adesso con questo qua me l'hanno fatto per 9 anni, di più non possiamo metterglielo, dice perché lì c'ha un'età già alta, quindi dobbiamo arrivare a 76 anni, 9 anni. E vabbè, se tutto la Giarudi per sempre, arriverò anche lì. Chiaro, sì, ma stavo dicendo, ma i soldi, la salute dei soldi, prima diciamo lì, adesso che stai pagando quella che è finita. All'inizio erano un 20, a mettere questo da parte era pesante. Invece man mano che sono passati gli anni, la moneta ha perso valore e vale più poco. Vale più poco la moneta, la cifra è sempre quella, però ripeto, la moneta vale di meno. Infatti se si abbassa, quello è il fatto, quando c'aveva il tasso variabile, se si sollevava pagavo un bel, pagavo. Ah, prima, la prima lì che ha cominciato a pagare, la prima, la seconda, la terza, alla quarta mi si è fatta, ha cominciato ad abbassare, agito, così andai a muovere. Cioè sono stato sempre quella cifra lì, sempre pagando. Sempre quella cifra, 209 euro al mese sono arrivato sino a finire di pagare così. Sì, ma 209 euro si è accorto perché, diciamo così, 15 anni fa 209 euro erano pesanti, perché, diciamo così, la produzione della moneta era molto più alta, a quello che 209 euro erano fatti, via. Adesso invece ha perso valore, era un gioco. Infatti, è così, ho finito. Ha detto arrivederci. Ava se mappur. Ava fatto chiù. Non si passeranno i 19 anni. Si passa, lo so. Auguriamo sempre di andare avanti. È quello che dico io. Come conviene sempre andare avanti, guardare avanti sempre. Poi, se c'è qualcosa, pazienza. Ma gli chiedi animale, 2017, se vuoi, guarda, mi date il 2018, basta che guardi, ti sto pure mirando, ma non te ne rendi conto, volano. E ti volano, sì, e ti volano in fretta, anche gli anni ti volano. E vabbè, pazienza, voi si rubigliani i miei figlioli, che non vi sei più. Mi pare rimane chi è bugiato il muretto, dico allora sì, a bene a finire. E invece vent'anni sono passati, già è una vita, e mi pare rimane a me. E infatti, ed era rimane, ma andate così, può andare, anda, se no tu remendare tu. Manco così, e conveniva così, conveniva. Anni travagliando, mi sono curato così, pregando mi sono andato a travagliare, ma quanti anni ci sei, grazie, non più si fa. E io, 18 anni e mezzo, 18 anni e mezzo, sto sempre a dire, 18 anni e mezzo, preparami la liquidazione. Oh, dietro travagliando io, sono entrati, 4 ditti sono entrati. Ah, di quanto vedo io, 4 ditte, me ne sono andato con l'ultima ditta, che vero un anno, me ne sono andato in pensione. E invece le situazioni non posso. E no, mi ha giubilato le denari della cooperativa, le denari di questa ditta, poi della Gesino, e ultimo di questa ditta ha giubilato un po' che nuda di un anno. Mi pare si consente qualche cosa, le liquidazioni. Ma il famoso di tutti gli altri hai fatto il cumulo, non lo altro perché, come dire, non avevi mai ritirato tutti i soldi, invece un licenziamento dovevi cambiare il mio cassato, invece no, ti hanno lasciato tutti a muschio. Della Gesino ne ha già ritirato 13.000 e 700 e qualcosa. Più 3.000 euro avevo preso da prima ed erano 16.000, quasi 17.000 euro erano. Cosa hai servito in fatto? Con la Gesino c'ero 10 anni e qualcosa c'ero. Hai accumulato, vai. Invece con la cosa che ho io, penso meglio. Dice feo, no, dalla cooperativa io sono stato 10 anni senza toccarli, che ce l'avevo in coso sempre, in processo, e poi mi è arrivato dall'Inps, mi è arrivato lo gonto, e ci ha liquidato l'Inps, direttamente 10.000 e qualcosa l'ho ritirato. Sei stato fortunato, perché non ho ritirato nulla. Prima era con le 2005 ho lavorato 3 anni, 4 anni con il napoletano. Mi ricordo la Gonzaga, ho fatto la casa della Gonzaga. Quello lì, sì, te li mando, sono andato a Napoli, ho dovuto dire, E tu lo sai, potevi fare la denuncia direttamente con l'Inps, cercavano loro, se non pagavano loro ti pagava l'Inps, dovevi fare la denuncia all'Inps, dovevi fare. E aspettando sempre di avere buoni rapporti, aspettavo, mi approfitta, quando vedi che sei buono, bisogna passare i piedi. Noi abbiamo fatto la denuncia, l'avvocato aveva fatto la denuncia direttamente, aveva fatto. E se in tal mese non ti pagava la ditta direttamente con il tribunale, d'accordo con il tribunale, non ti pagava la ditta, ci ha pagato l'Inps, ci ha liquidato. E da due dei anni, l'hai ricevuto però, ho passato un po' di anni non l'hai ricevuto, invece io ho passato un po' di anni non l'ho ricevuto, due vite, due bruciature, e vabbè, erano pochi, una era del milione e allora è dire, la qualità era del milione e 8, e invece prendevo con il nonno, mi sembra che erano 19 e qualcosa, 2000 però, no, c'è un tenuto, pensi. Quando vedevi che in 3 mesi non te li dava, allora io avrei fatto la denuncia. Sei andato all'Inps, con l'Inps, con un avvocato, e l'Inps ti liquidava, l'Inps ti liquidava. Poi già gli cercavano loro. Sì, quando dichiaro fallimento, lo venivo a fare. Dichiaro fallimento, non c'è nulla a fare, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Lo faceva il lavoro a Costanza, a fratello. e noi poi lo volevo qualche volta. E quando ha fatto il palazzo, quando fai proprio bandiera gialla, dove tutti i cambiati sono più poveri, se ne vanno, quello ha fatto la sua famiglia. E io lì ci ho fatto dei pavimenti, gli esercizi che hanno fatto, dei negozi, da provarlo. Quando veniamo a questo bambino a controllare, mi dice, maestro, mi dica a Costanza, io di prima vengo con Burisi, e Burisi vogliono fare scoppa. E c'è la mangiata, guarda, è la frappa. Ehi, ma ti dirai, io frappo già a Burisi. Quando non passi all'autista, si sta cagassando un bambino. Ma ti dirai, un sacco di muratori. Alle dipendenze di altri piccoli impresari e a voi li hanno attirato e poi vado per il bagliato a consumire di travagli mani di pochi di cassato e io ci sono stato un anno, ci sono stato lì con De Lugo, ho lavorato con lui, poi abbiamo finito in carpenteria e sono andato via io da lì. Poi ho già fatto, finendo in chibi, entrando in una sul cantiere, finendo un cantiere e andando in con la cooperativa. Ho già iniziato con la cooperativa nella mondezza. Andavo. Ah, fai. Io non ho portato che non vengo, no. Eliminato tutti i punti. Ma questo. C'era uno che voleva entrare, forse forse, avanti. E il signor Luca è... C'è Graziano, comunque. Ciao signor Luca, buonasera. Certo, non credo che la produzione graziana, veramente. Bugie sono dice di Luca, buonasera, me lo ascoltiamo. E bugie dice graziano. Già dice poche bugie, se non dire un'altra parola. Che rispondono. Dice di mancanti, vaggi. Ma Gio Maria, perso sì. No, è arrivata gente, si è assentato. Ma chi? Ma Luca ha detto te la di piantare che com'era? Fornito, Sì, Luca, che cosa? Ciao, grazie. Luca ha detto te la di piantare che com'era? Che com'era? Me la caco. Ah, me la caco, scusa. Io non ho detto tu le piante. Guarda, se tu pianti e me la caco, con Luca farei tutto il palazzo. Facciamo azienda. Cazzo, Luca, d'inverno è stato, guarda, veramente, un chilo al giorno te lo compra, Io l'ho da fare, da fare. Capito, ho trovato già, un po' di sempre sulla campagna, il piantatore di campagna, da tempo più di noi. Torre, gliela vendo io la mia campagna, la vuoi Torre? No, no, ce n'ho questa tra le mani, vediamo cosa ne esce, se no da... Se non esce nulla, non piglio più nulla, non piglio. E non faccio più nulla. Già ti arrendi poco subito. Ma arrendo subito, che se no ando a una stessa cosa, non ando più. Mi stufo e boh. Della serie, se non spendo è meglio. No, sono fatto così, se no ando a una stessa cosa, chiudo lì e boh. Io te la volevo, guarda, dare la mia a un prezzo veramente che decidevi tu addirittura. Ti rubai 2 euro un pezzo di nocchi sotto, Tore, non recinto e si porre i cani. E allora, quelli acqua di mille affusurati, vai, assaggi ne vai Carlo Guso, sono lontano dalla città e da tutto. E io che so, fai a mezzo due, non ti preoccupare. Confermo, te li fanno allo spiedo. vai, sai se ne vega lo guso, catta, lontano da tutto, ma, catta, poi se devo fare 50 chilometri, ne c'è una futti, però sai se ne vega lo guso. 50 chilometri, mitica, adesso la segno della campagna, ce la vuoi? Ciao da un amico ce li ho insieme agli altri lupi. Ah, allora è vero che stai facendo l'allevamento a scopo industriale. No, non sono i miei. il bianco è di mia figlia e la lupa è di mio genero. Quindi li ho portati lì perché a Londra, se non che non si cercano una casa con un giardino grande, non è buoni di Gallo Guso. Già so, tutti così dicono così, anche io ho detto così all'ufficio entrato. No, a Londra gli hanno chiamato i poliziotti, gli hanno fatto la denuncia, perché dice che stavano abbaiando e coso. Ha detto che sta abbaiando, il cane, abbaiare. I cani cosa poneva il danno? Boh, per i londinesi, ma non comprende nulla. Cosa abbaggiava, che non abbaggiavano in bannuda. Catta, era chissà che a coso, se si ricoverava era meglio, se andava ai cronici, se ne andava, faceva prima. A chi abbaggiava il saggio e non abbaggiavano in inglese, hai compreso, e poi si sono sbandati. Sì, quando sono andato io, una lì, in Kiwi, e quando la giuvisa, agito, non si era soltanto più io che cosa, quando la giuvisa, agito, ma non si può conciare più bene. Catta, mi sembra una di squattere che ho più in carriera, agito, ce ne sono meglio di te, agito, ma cosa ha fatto, cosa ti hanno fatto i cani, non ho capito io. No. Ma vai a cagare a giudito. E poi cosa fa il recinto? L'animale. No, noi tutti, c'è se ne parecchia gente, non mi vuoi vedere il mazzo. Ma se tu la vedi, il romanzano, quando si esce a la casa suia, se la vedi, parliamo un'altra, come ti si conciava a giudito. Allontanatevi, in italiano, allontanatevi che sta passando la strega, e fazia. Un giravassi per il cugino piscicoli da cuavi. È vero. Non vi credi, Luca. Aspetta, quando uscia mi ha pigliato lo dreno, mi pigliò e mi diceva, no, non fare nulla, no, hai siete tenuto anch'io, tanto. Altro che... Catta, pensa nero dra, che ne resta nero dra, ecco, scusa un attimino, data una base. Io voglio lasciare, cosa che ho fatto la mia vita, tutta la faccenda. Ciao Luca, buona serata, come appena ascoltato il progresso per il mezzo. Ciao Graziano, buona serata che per te, per il tuo reato. Ciao Tore, ci sentiamo ancora. Ciao, saluto e rispetto la fila. Ciao a tutti. Sì, ciao Bacchi, ci sentiamo domani, dai. Vabbè, dai. Beh, signori, anche io devo andare, che mi sta chiamando la signora. Ok, ci sentiamo alle prossime. A Marino, che ha spazio di a casa sua. Ciao Luca, salutoni, a te la risentiamo. Bye bye a tutti, anche chi è l'ascolto. Ciao, grazie, ciao a tutti, ciao. Luca.